Sono troppo vero, converrebbe fare scena appena tipo condottiero. Io marcio tra gli zombie sottoterra con Romero. Non faccio i soldi ma se droppo merda oro nero. Faccio solamente rap, dramma da patologia. Senza trama, flow d'impatto, ho una laurea in fattologia. Non umano bro, il mio brano un brano d'antologia. Pezzo raro d'archeologia, tutto in nanotecnologia. Fumo e volo, get time, torno solo, stand by. Mi tolgo la maschera da uomo, sono reptile. High tech, young vet, alta scuola, senpai. Rap live, raffiche di Tech Nine, flatline. Sto con due P, pochi ma buoni voi tanti idioti. La gente nomina tutti i santi noti, fateci l'antidoping. Resti lì che godi, in cervello in pappa che scrive lodi. Finché esplodi, sì che me, genio malato, Stephen Hawking. Altri livelli, resti di sasso. Doppio passo, sol passo, Maradona, Armstrong, George Best, il test non lo passo. Doppio passo, sol passo, Maradona, Armstrong, George Best, George Best, Maradona, Armstrong, George Best, George Best, Maradona, Armstrong, George Best, George Best, Maradona, Armstrong, George Best, George Best, George Best, George Best. Come rapper ho un problema, sono troppo buono. Il mondo ha problemi più grandi e sti quattro ignoranti che parlano li perdono. Ma le grazie in eterno le fanno i santi e io sono solo un uomo. E sfidarmi equivale a scantarsi, vuoi fare un frontale sul muro del suono. Vieni avanti, vuoi la faida? Prima ti batto e dopo me ne vado fischiettando come Flowrida. Io c'ho il flow vai tra, put the light, come in Jamaica. Black City Beach non sei taiga. Sputo rap, baila, ma quale charm, smaila. So di vodka con la menta, stai là, non farmi il test, hai là. Fai gà da tenere a bada che tutta la sera guarda e sbava come Laika. Mi potenzio come un Saiyan, ma poi faccio pisciare gli altri in fila come a Naya. Aia, non passiamo il test, non puoi invitare me, me 2P e Jam all'Octoberfest. Altri livelli, resti di sasso. Doppio passo, sol passo, Maradona, Armstrong, George Best, il test non lo passo. Doppio passo, sol passo, Maradona, Armstrong, George Best, George Best, Maradona, Armstrong, George Best, George Best, Maradona, Armstrong, George Best, George Best, Maradona, Armstrong, George Best, George Best, George Best, George Best. Come rapper ho un problema, sto troppo fatto. Rime un numero troppo alto, a voi vi supero con doppio salto. Gin doppio, ne voglio un altro. Spliff doppio, bis doppio, ti scoppio come un petardo, stai lì sotto in ginocchio. Quanto sei seri nel chilometraggio? Un chilo ne ho, un chilo ne faccio. Vivo e disagio, ma se rimo ti piaccio come un tiro di baggio. Pedalo in doppia come un tandem, ogni quartina è un anthem. Risplende e vado alla grande, tu sei un bottino in mezzo all'Atlante. Amen, amen, corro veloce, amen. Le facce degli infami me le ricordo tutte, Rayman. Le pupille da baseball sotto ai Ray-Ban, baby. Manda giù questa e benvenuta nella label, non provare a farlo a casa, ti faresti male. Lupo della steppa, non mi puoi addomesticare. Sei sempre stato scarso, resti tale. Non hai flow neanche se ridevi in altri test uguale. Altri livelli, resti di sasso. Doppio passo, sol passo, Maradona, Armstrong, George Best, il test non lo passo. Doppio passo, sol passo, Maradona, Armstrong, George Best, George Best, Maradona, Armstrong, George Best, George Best, Maradona, Armstrong, George Best, George.